ad alta voce. Lino Guanciale legge Cuore di tenebra di Joseph Conrad. Traduzione di Ettore Capriolo. Ci capitò un'avaria, come avevo previsto, e ci toccò fermarci per le riparazioni sulla punta di un'isola. Questo indugio fu la prima cosa che scosse la fiducia in sé di Kurtz. Una mattina mi diede un pacchetto di carte e una fotografia, il tutto legato assieme con un laccio da scarpe. «Lo tenga per me», disse. «Quel malefico imbecille», alludeva al direttore, «è capace di frugare nelle mie casse quando non guardo». Lo rividi nel pomeriggio e stava sdraiato sulla schiena con gli occhi chiusi. Mi ritirai senza fare rumore, ma lo udii borbottare. «Vivere retti, morire, morire...» Restai ad ascoltare, ma non aggiunse altro. Stava provando un discorso nel sonno o era un frammento di un articolo di giornale? Aveva già scritto per i giornali e intendeva farlo ancora. «Per sostenere le mie idee», diceva, «è un dovere». La sua era una tenebra impenetrabile. Lo guardavo come voi potreste osservare un uomo che giace in fondo a un precipizio dove non brilla mai il sole. Ma non avevo molto tempo da dedicargli, perché dovevo aiutare il motorista a smontare i cilindri che perdevano, a raddrizzare un'asta di collegamento piegata e a compiere altri lavori del genere. Vivevo in un caos infernale di ruggine, limatura, viti, bulloni, chiavi inglesi, martelli, trapani a cricco, cose che aborro perché con loro non vado d'accordo. Mi occupavo della piccola forgia che per fortuna avevamo a bordo. Sgobbavo faticosamente in una squallida pila di rottami, finché non tremavo troppo per reggermi in piedi. Una sera, entrando con una candela, sussultai al sentirgli dire, con voce un po' tremula, «Me ne sto sdraiato qui al buio ad aspettare la morte». La luce era a meno di 30 centimetri dai suoi occhi. Mi costrinsi a mormorare «Oh, non dica sciocchezze», e restai sopra di lui come pietrificato. Non avevo mai visto niente di paragonabile al cambiamento che si verificò nei suoi lineamenti e spero di non vederlo mai più. No, non perché ne fossi commosso. Ne ero affascinato. Era come se fosse stato strappato un velo. Scorgevo su quel viso d'avorio l'espressione di un orgoglio tenebroso, di un potere spietato, di un terrore vile, di un'intensa e avvilita disperazione. Stava rivivendo la propria vita in ogni suo particolare, di desiderio, di tentazione e di resa, in quel momento supremo di conoscenza totale. Gridò in un sussurro a qualche immagine, a qualche visione davanti ai suoi occhi. Gridò due volte, un grido che non era più di un respiro. L'orrore, l'orrore. Spensi con un soffio la candela e uscii dalla timoniera. I pellegrini stavano cenando in mensa e presi il mio solito posto di fronte al direttore, il quale alzò gli occhi rivolgendomi uno sguardo interrogativo che riuscii a ignorare. S'appoggiò indietro sereno, con quel sorriso particolare che suggellava gli abissi inespressi della sua grettezza. Una pioggia ininterrotta di moscerini si riversava sulla lampada, sulla tovaglia, sulle mani e le facce di tutti quanti noi. Quando ad un tratto il ragazzo del direttore mostrò la sua insolente testa nera sulla porta e disse, in tono di feroce disprezzo, «Signor Kurtz, lui morto». E allora tutti i pellegrini corsero fuori a vedere, mentre io rimasi e continuai a mangiare. Penso che gli altri mi giudicassero brutale, insensibile, e comunque non mangiai molto. C'era una lampada lì dentro, c'era della luce, capite? Mentre fuori faceva un buio spaventoso, spaventoso. Io non mi avvicinai più a quell'uomo notevole che aveva espresso un giudizio sull'avventura della propria anima sulla terra. La voce era scomparsa. E che altro c'era ancora? Ma so, naturalmente, che il giorno dopo i pellegrini seppellirono qualche cosa in una buca melmosa. E poi, mancò poco che seppellissero anche me. Tuttavia, come potete vedere, non andai a raggiungere subito Kurz, no. Rimasi a sognare l'incubo sino alla fine e a mostrargli ancora una volta la mia fedeltà. Destino? Il mio destino. Che cosa strana la vita, quel misterioso organizzarsi di una logica implacabile per un futile obiettivo. Il massimo che potete sperarne è una certa conoscenza di voi stessi, a cui comunque arrivate troppo tardi. Una messe di rimpianti inestinguibili. Io ho lottato con la morte, ed è la competizione meno eccitante che si possa immaginare. Si svolge in un grigio impalpabile, con niente sotto i piedi e niente attorno, senza spettatori, senza grida, senza gloria, senza la grande voglia di vincere, senza la grande paura della disfatta, in un'atmosfera malsana di tiepido scetticismo, con poca fede nei propri diritti e ancora meno in quelli del vostro avversario. Se è questa la forma della saggezza suprema, allora la vita è un enigma più grande di quanto pensino tanti di noi. Sono stato a un pelo dall'occasione estrema di esprimermi e ho scoperto, con umiliazione, che probabilmente non avevo niente da dire. Mentre lui qualcosa da dire l'aveva e parlò. Per avere sbirciato di persona oltre il limite, io capisco meglio il significato del suo sguardo, incapace di vedere la fiamma della candela, ma grande abbastanza da abbracciare l'intero universo e abbastanza acuto da penetrare in tutti i cuori che battono nella tenebra. Aveva ricapitolato, capite? Aveva giudicato l'orrore. Era un uomo notevole, sì. Dopotutto, aveva espresso una sorta di fede, con schiettezza, con convinzione. C'era nel suo sussurro una nota vibrante di rivolta, il volto terrificante della verità intravista, la bizzarra miscela di desiderio e di odio. Quel che ricordo meglio non è il mio momento estremo, una visione grigia, informe, piena di sofferenza fisica e di un disprezzo indifferente per l'evanescenza di ogni cosa, compresa la sofferenza stessa. No, è il suo momento estremo che mi sembra di avere vissuto. Certo. Lui fece anche l'ultimo passo, si spinse oltre il limite, mentre a me fu permesso di ritrarre il piede esitante all'ultimo. E forse la differenza è tutta qui, no? Forse la saggezza, la verità, la sincerità sono interamente compresse in quel momento fugace in cui varchiamo la soglia dell'invisibile, forse. Mi piace pensare che la mia ricapitolazione non sarebbe stata una parola di indifferente disprezzo. Meglio il suo grido, molto meglio. Era un'affermazione, una vittoria morale, pagata con innumerevoli disfatte, con abominevoli paure, con abominevoli soddisfazioni, sì, ma era una vittoria. E per questo io sono rimasto fedele a Kurz sino alla fine, e anche oltre, quando molto tempo dopo udii ancora una volta non la sua voce, ma l'eco della sua meravigliosa eloquenza, rimandatami da un'anima luminosamente pura come una roccia cristallina. No, non mi seppellirono, anche se ci fu un periodo che ricordo confusamente, con uno stupore che mi fa rabbrividire, come un passaggio in un mondo inconcepibile dove non avevo né speranze né desideri. Io mi ritrovai nella città sepolcrale, detestando lo spettacolo degli omuncoli che percorrevano frettolosi le strade per rubacchiarsi a vicenda qualche quattrino, per divorare la loro cucina infame, per ingurgitare la loro birra malsana, per sognare i loro sogni sciocchi e insignificanti. Essi invadevano i miei pensieri ed erano intrusi, la cui conoscenza della vita era per me una finzione irritante, talmente ero sicuro che non potessero in alcun modo conoscere le cose che conoscevo io. Il loro portamento, che era semplicemente quello di individui qualsiasi che si occupano dei propri affari con la certezza di essere assolutamente al sicuro, era per me offensivo. Offensivo quanto gli sfoggi oltraggiosi della follia di fronte ad un pericolo che non è in grado di comprendere. Io non avevo una voglia particolare di illuminarli, ma mi era spesso difficile trattenermi dallo sbottare a ridere in quelle loro facce così piene di stupida prosopopea. Probabilmente in quel periodo non stavo molto bene. Giravo traballando per le strade, avevo varie faccende da sistemare e sogghignavo con amarezza a persone assolutamente per bene. Riconosco che il mio comportamento era imperdonabile, ma va detto che in quei giorni la mia temperatura era raramente normale. Gli sforzi della mia cara zia per rimettermi in forze mi sembravano futili. Non avevo bisogno di rimettermi in forze, avevo bisogno di placare la mia immaginazione. Conservavo il fascio di carte datomi da Kurz senza sapere con precisione che cosa farne. Sua madre era morta da poco, assistita, per quanto mi avevano detto, dalla sua promessa sposa. Un uomo, dal viso ben rasato e con modi ufficiali e occhiali cerchiati d'oro, venne un giorno da me per svolgere indagini, prima tortuose e poi garbatamente pressanti, su quelli che amava definire certi documenti. La cosa non mi sorprese, perché laggiù, su questo argomento, avevo già avuto due liti con il direttore. Mi ero rifiutato di consegnargli anche solo il più piccolo frammento di quel pacchetto e assunsi il medesimo atteggiamento anche con l'occhialuto. Passò allora a toni di oscura minaccia e sostenne con molto calore che la compagnia aveva diritto a qualsiasi informazione concernente i propri territori e disse la conoscenza da parte del signor Kurz di regioni inesplorate doveva necessariamente essere vasta e particolare, date le sue grandi capacità e la posizione che gli era stata purtroppo affidata. Di conseguenza... Ma io gli garantì che le conoscenze del signor Kurz, per quanto vaste, non riguardavano i problemi del commercio o dell'amministrazione. E allora lui si appellò alla scienza. Sarebbe una perdita incalcolabile se... eccetera, eccetera. Gli offrì il rapporto sulla soppressione delle usanze selvagge, dopo averne strappato via il poscritto, ovviamente. Lo agguantò avidamente, ma finì per arricciare il naso con aria sprezzante. «Non è questo quello che avevamo il diritto di aspettarci», osservò. «Ah, non si aspetti altro», dissi. «Ci sono solo lettere personali». E allora l'occhialuto si congedò, minacciando azioni legali, ma non lo vidi più. Poi, due giorni dopo, comparve un altro tizio, che si presentò come un cugino di Kurz, ansioso di ascoltare tutti i particolari degli ultimi istanti del caro parente. Come tra parentesi, mi fece capire che Kurz era stato, soprattutto, un grande musicista. «C'erano gli ingredienti per un successo immenso», mi disse quest'uomo, che era un organista, credo, con lunghi capelli grigi fluenti sul bavero unto della giacca. Io non avevo motivo di dubitare della sua affermazione. Ancora oggi non sono in grado di dire quale fosse la professione di Kurz, supponendo che ne avesse una, né quale fosse la più spiccata delle sue attitudini. L'avevo creduto un pittore che scriveva per i giornali o un giornalista che sapeva dipingere, ma neanche il cugino, che fiutava tabacco durante la conversazione, seppe dirmi che cosa fosse stato con esattezza. Era un genio universale. Su questo ero d'accordo con quel vecchietto, che subito dopo si soffiò rumorosamente il naso con un grande fazzoletto di cotone e si ritirò in uno stato di agitazione senile, portandosi via lettere di famiglia e appunti privi di importanza. Infine si fece vivo un giornalista ansioso di notizie sulla sorte del suo caro collega. Questo visitatore mi informò che il campo d'azione vero e proprio di Kurz sarebbe dovuto essere la politica di parte popolare. Aveva sopracciglia diritte e foltissime, capelli ispidi tagliati molto corti, monocolo con un nastrino particolarmente largo e, divenuto espansivo, mi confessò che a suo parere Kurz in realtà non sapeva proprio scrivere, ma Dio del cielo, come era bravo a parlare. Elettrizzava folle enormi perché aveva fede, capisce? Aveva fede. Poteva convincersi a credere in qualsiasi cosa, in qualsiasi cosa. Sarebbe stato uno splendido capo di un partito estremista. «Quale partito?» domandai. «Uno qualsiasi», rispose l'altro. «Era un estremista?» «Sì». D'altra parte non lo pensavo anch'io. Assentì. «Sapevo», domandò con un lampo improvviso di curiosità, «che cosa lo aveva indotto ad andare laggiù?» «Sì», dissi, e subito gli consegnai il famoso rapporto perché lo pubblicasse se lo riteneva meritevole. Gli diede una rapida scorsa, borbottando in continuazione, e decise che poteva andare, e poi andò via col suo bottino. Rimasi così alla fine con un pacchetto di lettere e il ritratto della ragazza. Mi sembrò bella. Voglio dire, aveva una bella espressione. Lo so che si può far dire bugie alla luce del sole, e tuttavia sentivo che non c'era manipolazione della luce o della posa capace di produrre la delicata sfumatura di sincerità visibile su quei lineamenti. Sembrava pronta ad ascoltare, senza riserve mentali, senza diffidenze, senza preoccuparsi di sé. E allora decisi che sarei andato di persona a restituirle il ritratto e le lettere. Curiosità? Sì, e forse anche qualche altro sentimento. Tutto ciò che era stato di corsa era ormai uscito dalle mie mani. La sua anima, il suo corpo, la sua stazione, i suoi progetti, il suo avorio, la sua carriera, restavano soltanto la sua memoria e la sua promessa sposa. E io volevo, per così dire, consegnare anche queste al passato, affidare personalmente tutto ciò che mi restava di lui a quell'oblio, che è la parola estrema del nostro destino comune. Non mi sto difendendo. Non avevo un'idea chiara di ciò che volevo in realtà, forse era un impulso di fedeltà inconscia o la soddisfazione di una di quelle ironiche esigenze che si annidano nei fatti dell'esistenza umana, insomma, non lo so, non potrei dirlo, però andai. Pensavo che il suo ricordo fosse come gli altri ricordi dei morti che ogni uomo accumula nella propria vita, una vaga impronta nel cervello delle ombre che vi sono cadute sopra nel loro rapido passaggio finale, ma davanti al portone alto e massiccio, tra le case austere di una strada quieta e dignitosa come il viale ben tenuto di un cimitero, ebbi una visione di lui che sulla barella apriva voracemente la bocca come per divorare la terra intera con tutta l'umanità. Viveva in quel momento davanti a me, viveva come aveva vissuto, un'ombra mai sazia di splendide apparenze, di realtà spaventose, un'ombra più scura dell'ombra della notte e nobilmente drappeggiata nelle pieghe di un'eloquenza sontuosa. La visione parve entrare insieme a me nella casa, la barella, i portatori fantasma, la folla selvaggia dei fedeli obbedienti, il buio delle foreste, il luccichio di quel tratto di fiume tra le anse caliginose, il battito del tamburo, regolare e soffocato come le pulsazioni di un cuore, il cuore di una tenebra vittoriosa. Fu per la foresta un momento di trionfo, un'ondata invadente e vendicativa che mi sembrava di dover trattenere da solo per la salvezza di un'altra anima, e il ricordo di ciò che gli avevo udito dire laggiù, con quelle forme cornute che si muovevano alle mie spalle, nel bagliore dei fuochi, entro i boschi pazienti, quelle frasi spezzate mi tornarono alla memoria, si fecero nuovamente udire nella loro sinistra e terrificante semplicità. Ricordai tutte le sue suppliche abbiette, le sue abbiette minacce, le proporzioni colossali dei suoi spregevoli desideri, la grettezza, il tormento, l'angoscia tempestosa della sua anima. E in seguito mi parve di vedere il suo atteggiamento languido e controllato del giorno in cui mi aveva detto: «Ora questa partita d'avorio è mia». Non l'ha pagata la compagnia, l'ho raccolta io con grandissimi rischi personali. E temo però che cercheranno di pretenderla per sé. È un caso difficile, eh? Che cosa dovrei fare, secondo lei? Resistere, eh? Perché io voglio soltanto giustizia. Voleva soltanto giustizia, Kurz. Soltanto giustizia. Giustizia. Suonai il campanello a una porta di mogano al primo piano e mentre aspettavo mi sembrava che lui mi stesse fissando da quel lucido pannello, che mi fissasse con quello sguardo ampio, immenso, che abbracciava, condannava e odiava l'intero universo. Mi parvi di udire il suo grido sussurrato: l'orrore, l'orrore. Stava uscendo il crepuscolo. Dovetti aspettare in un altro salotto con tre finestre che andavano dal pavimento al soffitto, che parevano tre colonne luminose e drappeggiate. Le contorte gambe dorate e gli schienali dei mobili luccicavano in curve indistinte. L'alto caminetto di marmo era di un bianco freddo e monumentale. In un angolo troneggiava massiccio un pianoforte a coda, con bagliori cupi sulle superfici piatte, come un oscuro e levigato sarcofago. Una porta si aprì, si chiuse. Mi alzai. Lei venne avanti, tutta in nero, con una testa pallida, fluttuando verso di me nella penombra. Era in lutto. Era passato più di un anno da quando lui era morto, più di un anno da quando era arrivata la notizia. Sembrava destinata a ricordarlo e piangerlo per sempre. Mi prese le mani nelle sue e sussurrò: me lo avevano detto che sarebbe venuto. Io notai che non era giovanissima, voglio dire che non era più una ragazzina. Aveva capacità mature di fedeltà, di fede e di sofferenza. La stanza pareva diventata più buia, come se tutta la luce triste di quella sera nuvolosa si fosse rifugiata sulla sua fronte. Quei capelli biondi, quel viso pallido, quella fronte pura, sembravano circondati da un alone cinereo da cui mi guardavano i suoi occhi scuri. Il loro sguardo era schietto, profondo, sicuro, fiducioso. Portava quella testa dolente come se fosse stata fiera del proprio dolore, come per dire: io sola so piangerlo come lui merita. Ma mentre ci stavamo ancora stringendo le mani, comparve sul suo viso un'espressione di così terribile desolazione da farmi capire che avevo di fronte una di quelle creature che non sono un giocattolo nelle mani del tempo. Per lei, Kurz era morto appena ieri. E per Giove l'impressione era talmente forte che anche a me sembrava che fosse morto appena ieri. Anzi no, proprio in quel minuto. E vidi lei e lui nello stesso attimo di tempo, la morte di lui e il dolore di lei. Il dolore di lei nel momento stesso della morte di lui, lo capite? Io li vidi insieme, li udii insieme. Lei aveva detto con una esitazione profonda nel respiro: io sono sopravvissuta. E intanto le mie orecchie parevano udire chiaramente, mescolato al suo disperato rimpianto, il sussurro di ricapitolazione della condanna eterna che lui aveva pronunciato per sé. Mi domandai che cosa stessi facendo lì, con un senso di panico in cuore, come se fossi entrato per sbaglio in un luogo di misteri crudeli e assurdi, non adatti alla vista di un essere umano. Lei mi indicò una sedia e ci sedemmo. Posai delicatamente il pacchetto sul tavolino e lei vi mise sopra una mano. «Lo conosceva bene?» mormorò dopo un attimo di luttuoso silenzio. «Beh, sì, fa presto, sa, laggiù a diventare intimi», dissi. «Lo conoscevo per quanto è possibile ad un uomo conoscerne un altro. E lo ammirava», disse lei. «Perché era impossibile conoscerlo e non ammirarlo, vero?» «Era un uomo notevole, sì», lo dissi con voce malferma. Poi, davanti alla supplice fissità del suo sguardo, che pareva aspettare altre parole dalle mie labbra, aggiunsi: «era impossibile non amarlo», finì lei con impazienza, riducendomi ad un atterrito mutismo. «Com'è vero? Com'è vero? Ma nessuno lo conosceva quanto me. Ho avuto io tutte le sue nobili confidenze. Io lo conoscevo meglio di chiunque altro». «Certo, lo conosceva meglio di chiunque altro», ripetei. «E forse era anche vero». Ma ad ogni parola che pronunciavamo, la stanza diventava più buia e solo la sua fronte, liscia e bianca, rimaneva illuminata dalla luce inestinguibile della fede e dell'amore. «Lei era suo amico», continuò. «Suo amico», ripeté un po' più forte. «Doveva esserlo se le ha dato questo e se l'ha mandata da me. Sento che con lei posso parlare. E sì, io devo parlare. Voglio che lei che ha udito le sue ultime parole, sappia che io sono stata degna di lui. Non si tratta di orgoglio e invece sì. Sì, perché sono orgogliosa di sapere che l'ho capito meglio di chiunque altro al mondo. È stato lui stesso a dirmelo. È da quando è morta sua madre che non ho più nessuno con... Io la ascoltavo e l'oscurità si infittiva. Non ero neanche sicuro che lui m'avesse dato il pacchetto giusto, sospetto anzi che avrebbe voluto affidarmi un altro fascio di carte che vidi dopo la sua morte esaminare dal direttore sotto la sua lampada. La ragazza parlava, alleviando la propria pena nella certezza della mia comprensione, parlava come beve un assetato. Avevo sentito dire che il suo fidanzamento con Kurz era stato disapprovato dalla sua famiglia perché lui non era abbastanza ricco o per qualche motivo del genere. E di fatto non sono sicuro che non fosse stato povero tutta la vita. Mi aveva dato qualche ragione per supporre che era stata proprio l'insofferenza per una relativa povertà a spingerlo laggiù. Chi non gli era amico dopo averlo sentito parlare anche una sola volta, stava dicendo lei. Attirava a sé gli uomini in ciò che avevano di meglio. Mi guardò con intensità. E questo è il dono dei grandi, continuò. E il suono della sua voce sommessa pareva accompagnato da tutti gli altri suoni pieni di mistero, desolazione e sofferenza che mi era accaduto di udire. Il gorgoglio del fiume, il gemito degli alberi mossi dal vento, i mormorii delle folle, la fievole eco di parole incomprensibili gridate in lontananza, il sussurro di una voce che parla oltre la soglia di una tenebra eterna. Ma lei lo ha udito? Lei dunque sa? Gridò. Sì, io so. Dissi con una sorta di disperazione in cuore, ma chinando il capo dinanzi alla fede che era in lei, dinanzi a quell'illusione grande e provvidenziale che brillava di una luminosità sovrannaturale nell'oscurità, nella tenebra trionfante da cui non avrei potuto difenderla, come non avrei potuto difendere neanche me stesso. Quale perdita per me, per noi, si corresse con bella generosità. E poi aggiunse in un bisbiglio, per il mondo. Negli ultimi bagliori del crepuscolo potevo vedere il luccichio dei suoi occhi pieni di lacrime, lacrime che non sarebbero mai cadute. Sono stata molto felice, molto fortunata, molto orgogliosa, continuò. Troppo fortunata, troppo felice per una breve parentesi. E ora sono infelice per la vita. Si alzò. E i suoi capelli biondi parvero cogliere quel poco di luce che restava in un barlume dorato. Mi alzai anch'io. E di tutto questo, continuò con tristezza, di tutta la sua promessa e di tutta la sua grandezza, della sua mente generosa e del suo nobile cuore non rimane nulla, soltanto un ricordo. Lei e io, noi lo ricorderemo sempre, m'affrettai a dire. No, gridò lei. È impossibile che tutto questo sia andato perso, che una vita come la sua sia stata sacrificata senza lasciare nulla se non sofferenza. Lei sa quali grandi progetti aveva. Io li conoscevo, benché forse non li capissi, ma ne erano al corrente anche altri e qualche cosa bisogna che resti. Le sue parole almeno non sono morte. No, le sue parole resteranno, dissi. E il suo esempio, sussurrò a se stessa. Gli uomini lo guardavano con ammirazione. La bontà splendeva in ogni suo atto, il suo esempio. È vero, dissi. Anche il suo esempio, sì, il suo esempio, quello lo stavo dimenticando. Ma io no, io non posso. Non posso credere, non ancora. Non posso credere che non lo vedrò mai più, che non lo vedrà mai più nessuno, mai, mai, mai più. Allungò le braccia come per afferrare una figura che si stesse allontanando e le tese nere e con le pallide mani giunte nella stretta morente lucentezza della finestra. Non vederlo mai più. Io allora lo vedevo abbastanza chiaramente e continuerò a vedere questo eloquente fantasma finché sarò vivo e continuerò a vedere anche lei, quell'ombra tragica e familiare. Simile in questo gesto ad un'altra, tragica anch'essa e adorna di amuleti impotenti, che allungava le nude braccia brune sul luccichio del fiume infernale, del fiume di tenebra. All'improvviso mi disse, molto piano, «È morto come è vissuto». «Sì, la sua fine, dissi con una sorda rabbia che mi si agitava dentro, è stata in ogni senso degna della sua vita». «E io non ero al suo fianco», mormorò lei. E qui la mia rabbia lasciò il posto ad un sentimento di pietà infinita. Tutto ciò che era possibile fare, mormorai. Ah, io credevo in lui più di chiunque altro al mondo, più di sua madre, più che lui stesso. Aveva bisogno di me, di me. Avrei fatto tesoro di ogni sospiro, di ogni parola, di ogni cenno, di ogni sguardo. Io sentii un brivido stringermi il petto. Non faccia così, dissi con voce soffocata. Mi scusi, ma io ho pianto così a lungo in silenzio. E lei è stato con lui sino alla fine, vero? Penso alla sua solitudine, con nessuno vicino che lo capisse come l'avrei capito io, forse nessuno che udisse. Sono stato con lui proprio sino alla fine, dissi con voce tremante. Ho udito le sue ultime parole. E qui mi interruppi spaventato. Me le ripeta, mormorò lei affranta. Io voglio qualcosa con cui vivere. E io allora stavo quasi per gridarle, ma non le sente. Il tramonto le sta ripetendo intorno a noi in un sussurro persistente, in un sussurro che pare gonfiarsi minaccioso come il primo mormorio di un vento che si sta levando. L'orrore, l'orrore! Le sue ultime parole, la prego. Le sue ultime parole con cui vivere, insistette. Non capisce che io lo amavo. Lo amavo. Lo amavo. Allora mi ricomposi e parlai con molta lentezza. L'ultima parola, signora, che pronunciò fu il suo nome. Udii un leggero sospiro e poi il mio cuore si fermò, bloccato di colpo da un grido esultante e terribile, dal grido del trionfo inconcepibile e dell'indicibile sofferenza. Io lo sapevo, ne ero sicura. Lo sapeva, ne era sicura. La udii piangere, s'era nascosta il viso tra le mani. E io avevo la sensazione che la casa sarebbe crollata prima che io potessi fuggirne, che il cielo mi sarebbe cascato in testa. E invece non accadde nulla, perché il cielo non casca per simili inezie. Sarebbe cascato, mi domando, se avessi reso a Kurtz la giustizia che gli era dovuta. Non aveva detto che voleva soltanto giustizia. Ma io non potevo dirlo a lei. Sarebbe stato troppo buio, decisamente troppo buio. E qui Marlowe tacque e restò seduto in disparte, sfocato e taciturno, nella posa di un Buddha in meditazione. Per un po' nessuno di noi si mosse. «Abbiamo perso l'inizio del riflusso», disse poi all'improvviso il direttore. Io alzai il capo e vidi che l'orizzonte era sbarrato da un nero banco di nubi e la tranquilla via d'acqua che conduceva agli estremi confini della terra scorreva cupa sotto un cielo coperto. Sembrava condurre nel cuore di una immensa tenebra.